non so se l'ha riferito a me, Giulio. Sì, sì, mi sembra che c'è stato anche un break basso basso. Se c'è il break, un attimo registrato. Sì, mi riferivo a te, Sandro. Che antenna usi tu? Hai per caso una Mantova oppure un altro tipo di antenna? Allora, attualmente uso, diciamo, la mitica Mantova 1. La Mantova 1, senz'altro te la ricorderai, quella, diciamo, con i quattro radiali in fibra, perché tempo addietro, diciamo, avevo la Mantova Turbo, però mi ha creato un po' di problemi. Mi sono salite le stazionarie, insomma, l'ho un po' mazzanata quella antenna, per dire la verità, Diciamo, l'ho un po' messa sotto torchio. Ma di antenne ne ho girato, Giulio, ne ho girato. Questa, diciamo, è la mitica Mantova 1, quella a quattro radiali in fibra, e vedo che va bene, dai. Sì, sì, va benissimo, no, non ci sono problemi. Sì, guarda Giulio, Sandro già lo sa quale antenna sto operando io. Sandro, come si chiama quell'antenna? Me l'avevi detto tu. Allora, se stai utilizzando quella che ho trovato io è la Sirio 8002, Sirio 8002 con la carica in rame, se non sbaglio 8 radiali in alluminio, diciamo che è buona come antenna. Sì, sì, 8 radiali, già quella. Quindi era Siri 8002, così ho detto. Caspa, si conferma, Siri 8002. Ecco, quella lì sto operando, Giulio, capito, con 8 radiali. E quell'altra che ho montato, che ti stavo dicendo, che Sandro sicuramente te lo ricordo come si chiama, quella col coso di trasparente, sa, che c'ha sempre 8 radiali, mi sembra che sia della Siri o della LEM. No, è sempre dell'assidio, è la classica Stellar, la classica chiamata Stellar, con, adesso non mi ricordo se 12 o 16 radiali, sempre in alluminio, con una bella carica in rame, con una protezione, diciamo, plastica trasparente, insomma un'antenna abbastanza all'avanguardia. Sì, sì, però questa qui è il modello, quella con 8 radiali, questa che ho io. L'ho vista su internet, quella con 16 radiali. Sì, sì, quella con 16 radiali deve essere un mostro in ricezione. Perché non sono motivi. Lo so. Oggi un attimino che mi hanno chiamato, riprendo subito. Che c'è tutti questi grandi radiali, capito? E sembra fatta apposta per posarsi cornacchi, uccelli e quant'altro, però è una buonissima antenna. Tutto lì. Che prendi, Giulio? Ok, Sandro. Ok, ascolta, ti volevo chiedere una informazione. Perché l'hai dismessa la Mantova Turbo? Ma ti dava forse problemi di TVI per caso? O altro genere di problemi? Allora, ti spiego. I problemi che, diciamo, che ho riscontrato io, diciamo, su quell'antenna lì, siccome, diciamo, sotto per l'aggancio dei radiali ha una placca, questa placca che poi va avvitata a stringere i radiali, in effetti diventa un deposito, diciamo, di condensa e di acqua. Alla fine cosa succede? Succede che si forma stazionare e quant'altro, lì fuori che uno non si prenda la briga, diciamo, di isolarla e quant'altro. Questo è quello che ho riscontrato io. Ah, ho capito, solo io ho capito, sicché col tempo si marcirebbe la piastra e sarebbe rovinata l'antenna, ho capito, ma non era per questioni di TVI, no, siccome diciamo che me la stanno facendo arrivare un negoziante di Sassari, non so se hai ascoltato poc'anzi quando l'ho detto, e appunto non volevo aver fatto un errore a ordinare proprio quella, capito? Il TVI logicamente poi è derivato, il TVI dopo me l'ha procurato, è derivato perché le stazionarie mi sono salite notevolmente, diciamo, e quindi magari il TVI è stato dovuto, diciamo, alle stazionarie, perché si va a corrodere diciamo all'interno, dove noi il collettore, dove agganciamo il cavo diciamo di discesa al collettore, all'interno c'è un filo abbastanza, diciamo, tipo, cosa ti posso dire, un tipo 2,5, circa 2,5 diciamo di diametro, che va a collegarsi sulla spirale esterna. Lì cosa succede? Succede che va con la condensa va a deteriorarsi, diciamo, e procura stazionaria. Questo è quello che ho potuto riscontrare nel mio caso. Ho capito, no, perché ieri stavo parlando anche con lo posso anche dire, non è un problema, che anche lui ha quel problema lì, che disturba siccome lui ha lo stesso vantofaturbo, mi stava dicendo che disturbava a distanza anche di qualche metro, mentre invece andava sotto con la macchina e con 500 watt addirittura non disturbava proprio per niente. Non vorrei che la turbo facesse problemi di tipo A, hai capito, santo, solo per quello. Se no io non la prendo e compro un altro tipo di antenna, tutto lì. Va bene, facciamo girare per Tonino. Tonino non riprende, forse Tonino si doveva allontanare, perché mi è sembrato di sentire poc'anzi Tonino un po' in sovrammodulazione, perché probabilmente aveva un'urgenza da allontanare, per allontanarsi dal baracchino, eventualmente riprenderà dopo. Dai, riprendi Gianluca. Ehi AK, anzi dai, colgo l'occasione dai per salutare cordialmente, buon pranzo, ciao Sandro, ciao Giulio, ciao Tonino se sta ascoltando, oppure si è allontanato, comunque c'ha la radio. Siete saluti e amici che stanno ascoltando questo io. Sì dai, mi preparo io perché è già arrivata quasi l'ora X. Se per caso riesco a fare una chiamatina più tardi, magari se ci sentiamo che tutto coincide, lo faccio dall'auto. Ok signori, buon proseguimento di domenica, buon tutto, il vostro cuore familiare, tutto. Ci sentiamo, ciao, riprendi Sandro e fai girare. Ok, dai, ciao. A quanto ho capito, diciamo, il dovere mi sta chiamando. Ok, dai, buon tutto, buon proseguo di giornata. Sì, mi approfitto anche io che devo ultimare alcune cosetta. Giulio, ti saluto, o se coincide giornata, se no le prossime. Riprendi Giulio. Ok Sandro, ciao, grazie a te e anche a Gianluca chiaramente per il bel questo che abbiamo fatto stamattina, a risentirci molto molto presto, due amici super K tutti e due, entrambi, Tonino compreso, anche che sarebbe il terzo in questa ruota. Ok, ciao a tutti, ci sentiamo, ciao. Adesso chiamo Tonino, se riprende, se no chiudo anch'io. Tonino, ci sei? No, Tonino non c'è, chiudo anch'io. Ciao a tutti, grazie per il questo, ciao. Ciao a tutti, torno in banda M io e lascio un attimino qui in QRX mentre mi preparo. Ok, ciao.